and you're listening to Rock FM. Rock FM. Desperate for changing, starving for truth. Hustle where I started, we're chasing after you. I'm falling even more in love with you, letting go of all I've ever longed to. I'm standing here until you make me move. I'm hanging by a moment here with you. Forgetting all I'm lacking, completely incomplete. Take your invitation, you take all of me. Now I'm falling even more. Anche Black Rebel Motorcycle Club con Berlin, il loro nuovo singolo, 12:52, ancora una volta ben trovati su Rock FM. Grazie a Giorgio degli After Hours, abbiamo parlato con lui ovviamente del nuovo album e di altre cose molto interessanti. Adesso invece si va avanti con la musica. Vi ricordo i nostri contatti: 335-100-7777. claudia@rockfamily.it. Ieri sono arrivate anche un po' di mail all'indirizzo claudia@radiorockfm.com, però ormai tendo un po' ad ignorare quell'indirizzo, quindi se avete voglia segnatevi claudia@rockfamily.it. Allora continuiamo con la musica e continuiamo con una canzone meravigliosa. Questa canzone aveva un video che era qualcosa di eccezionale, mamma mia, bellissimo. A Perfect Circle, The Outsider.